ragazza ha ricostruito ciò che ricorda, cioè fino al momento del guardaroba, dopodiché i suoi ricordi si fermano e ricominciano quando si sveglia sul lettino dell'ospedale. Quindi sul piano processuale questa sua mancanza di memoria post-traumatica sicuramente quanto pesa? Questo è un processo in cui la persona offesa vale ai fini del danno che ha subito, ma in merito all'accertamento del fatto e ai fatti, questo è un processo che si poteva fare anche senza sentire la persona offesa. La persona offesa serve per dire: ho subito questi danni, oggi vivo in questo modo, ieri, prima del fatto, vivevo in quest'altro modo. Ma per quanto attiene all'accertamento dei fatti, i fatti sono stati accertati e vengono provati con testimoni e documenti che prescindono dalla ragazza. E a proposito di testimonianze, il ginecologo che l'ha accolta nei primi attimi ha detto: in 30 anni di carriera non ho mai visto una cosa del genere, il che insomma avrà pur qualche significato. Beh, il ginecologo è colui che ha visto la ragazza appena portata all'ospedale, è colui che ha chiesto l'ausilio di un chirurgo per la ricostruzione delle parti lesionate, quindi se ha detto questo probabilmente ne aveva buona ragione. Ci sono dei boatos che dicono che l'indirizzo sarebbe quello di derubricare il reato da stupro a lesioni gravi. Corrisponde a verità? Che mi risulti no, ovviamente il tribunale poi all'esito di tutta l'istruttoria farà le sue valutazioni ed emetterà una sentenza. Grazie. Grazie a voi.